La storia e la memoria di Dino Pesole. Crimine di guerra, necessità militare oppure un tragico errore? A 70 anni di distanza da quel 15 febbraio del 1944, quando sulla millenaria abbazia benedettina di Monte Cassino si scatenò il bombardamento degli anglo-americani che ne provocò la distruzione, ritornano alla ribalta dubbi e interrogativi. Di certo si sa che quel bombardamento fu originato dall'erronea convinzione che i tedeschi avessero trasformato l'abbazia in una sorta di fortezza, o quantomeno la utilizzassero come uno osservatorio militare nell'ambito della loro poderosa linea Gustav. Ma come si arrivò effettivamente alla decisione di colpire l'abbazia? A chi attribuire la responsabilità? Ne parliamo questa sera con Nando Tasciotti, giornalista e scrittore per 25 anni, inviato del Messaggero, che è in studio con noi questa sera, che sulla base della conoscenza diretta dei luoghi e delle testimonianze ha dedicato molti anni allo studio di questa battaglia. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Roosevelt disse di averlo appreso da un giornale del pomeriggio. Churchill non ne parlò per anni, ma fu solo dei militari alleati la decisione di bombardare l'abbazia di Monte Cassino il 15 febbraio 1944. Perché, distrutto il monastero, Hitler esultò, Roosevelt mentì, Pio XII tacque e Churchill si nascose. Il premier britannico non poteva non sapere quel che stava accadendo sulla linea Gustav. Dal 26 gennaio al 14 febbraio 44, Churchill scambiò con i generali Alexander e Wilson almeno 10 telegrammi relativi al fronte di Cassino e all'attività del corpo neozelandese. E l'ultimo, forse decisivo, fu inviato 20 ore prima del bombardamento. A 70 anni da quel tragico avvenimento, partendo dal salvataggio dei tesori dell'abbazia e di quello di San Gennaro che vi era stato nascosto, emergono nuovi scenari su quello che i tedeschi propagandarono come un crimine. Gli inglesi definirono una necessità militare e gli americani, ma solo più avanti, un tragico errore. Ecco, allora, Nando Tasciotti, cosa è emerso dalla tua inchiesta? In sintesi si può dire che appunto non fu solo dei militari la decisione di bombardare l'abbazia, e credo appunto di aver trovato alcune prove, in particolare un telegramma spedito da Churchill appena 20 ore prima del bombardamento. E poi, come secondo punto, i tedeschi ebbero la responsabilità primaria e decisiva nel provocare quella decisione. Non erano infatti dentro l'abbazia, ma sotto le mura sì, non avevano affatto rispettato l'area neutrale di 300 metri che essi stessi avevano inizialmente stabilito, e fecero quindi comunque un uso militare di quella posizione. E terzo, la tragedia di Monte Cassino contribuì a salvare Roma per l'eco suscitata nel mondo e anche per la triste lezione che il Vaticano disse di averne appreso. Ecco, ripercorriamo molto brevemente gli avvenimenti. L'abbazia fu bombardata dagli aerei anglo-americani il 15 febbraio del 44. Perché gli alleati presero questa decisione? E perché da oltre un mese, dal 12 gennaio 44, quando cominciò la prima delle quattro battaglie di Cassino, non riuscivano a sfondare la linea Gustav, ad aprirsi la strada per Roma. La Gustav era la principale linea difensiva dei tedeschi nell'Italia centrale, andava da Ortona sull'Adriatico a Minturno sul Tirreno, e l'abbazia è in cima a un piccolo monte, e per i tedeschi quel monte era il perno del loro sistema difensivo. Da lì infatti dominavano la Valle dell'Iri e la Via Casilina. Bisogna considerare che quella zona è circondata da tre montagne su tre lati, è percorsa da tre fiumi, il Rapido, il Gari e l'Iri, che si connettono e poi formano il Garigliano, e i tedeschi avevano fatto saltare gli argini allagato alla pianura. Insomma, è un sistema inaccessibile per chi viene dal sud ed è considerata dai militari una delle posizioni difensive naturali più inattaccabili d'Europa. Ecco, ma gli alleati non potevano aggirare quel monte, quella zona? E ci avevano provato, dapprima sulle montagne, poi sul Garigliano e anche con lo sbarco ad Anzio. E nella prima battaglia di Cassino, dal 12 gennaio al 12 febbraio del 44, erano state decimate quasi due divisioni americane. Gli americani erano ormai stremati Ed allora il compito fu affidato alla seconda divisione neozelandese comandata dal generale Freyberg. E Freyberg subito ritenne, ma non era il solo, che i tedeschi fossero dentro l'abbazia o che se ne servissero quantomeno come osservatorio militare. Ecco, ma a un certo punto questa battaglia si trasformò in una sorta di boomerang per gli anglo-americani. Sì, il fronte restò poi bloccato per altri 3 mesi, perché dopo l'assalto, il bombardamento dell'abbazia, che doveva essere preventivo all'attacco di terra, i tedeschi furono legittimati ad insediarsi tra le rovine dell'abbazia e la trasformarono davvero in una fortezza. E quindi poi lo sfondamento del fronte avvenne soltanto dall'11 al 18 maggio del 44. E nel frattempo, certo, c'era stata il 15 marzo la distruzione di Cassino, che fu rasa al suolo, e poi l'abbazia fu conquistata il 18 maggio dai polacchi. Ecco, ma quanti civili morirono quel 15 febbraio? Oltre 200, il numero non si sa con precisione, ce n'erano un migliaio, e si erano rifugiati lì proprio perché sia i tedeschi sia gli alleati avevano assicurato al Vaticano la neutralità di quel luogo. E l'abate Gregorio di Amare e altri 12 monaci rimasti nell'abbazia si salvarono. Dei civili sopravvissuti, alcuni sono ancora in vita e li ho intervistati. Nel libro il racconto di quella mattinata sotto le bombe è davvero impressionante e commovente. Ma i tedeschi c'erano o no dentro l'abbazia? No, affatto, però erano proprio a ridosso del monastero e, come ho detto prima, non rispettarono affatto l'impegno di creare una zona neutrale di 300 metri. Avevano depositi di munizioni e mitragliatrici in alcune grotte proprio sotto le mura del monastero e di notte 2 carri armati sparavano e poi si riparavano dietro l'enorme sagoma dell'abbazia. Quindi in questo senso dico che fu loro la responsabilità primaria e decisiva di quella tragedia, ecco, storica. Tu scrivi che Roosevelt mentì e Churchill si nascose. In che senso si nascose? Churchill, Roosevelt mentì perché subito, lui ne parlò subito nel pomeriggio alle 10 di sera, ora italiana, alle 4 a Washington, e disse in una conferenza stampa che ne aveva preso da un quotidiano del pomeriggio e fu proprio poco credibile, certo, perché quella era una decisione delicata che coinvolgeva i rapporti con il Vaticano e soprattutto per quanto riguarda Roosevelt il rapporto con i 23 milioni di elettori cattolici. Insostenibile come teoria, insomma. Sì, ma almeno Roosevelt ci mise la faccia. Invece Churchill non ne parlò per anni e ne scrisse solo alcuni anni dopo nella sua monumentale storia della Seconda Guerra Mondiale, ma lo fece in un modo contorto e cercò di far passare il generale americano Clark, che era comandante della Quinta Armata e che era riluttante a bombardare, come protagonista sollecitatore di una decisione che invece era stata voluta soprattutto dalla catena militare britannica e che faceva capo proprio a Churchill. Allora, il libro affronta anche il ruolo del Vaticano. Ecco. Volevo dire che ripetere che la cosa importante è che dal 26 gennaio del 44 al 14 febbraio Churchill scambiò appunto almeno 10 telegrammi con i generali Alexander e Wilson, e l'ultimo lo mandò appena 20 ore prima del bombardamento. Chiese ad Alexander quando proponeva di lanciare l'attacco di Freyberg, certo, e i piani di attacco di Freyberg prevedevano appunto il bombardamento preventivo dell'abbazia. Ora veniamo al ruolo del Vaticano, Pio XII. E fu un atteggiamento davvero stranamente cauto ed enigmatico. Bisogna considerare che ci sono i documenti che per mesi e fino a poche ore prima del bombardamento la Segreteria di Stato Vaticana aveva cercato di scongiurare quell'evento con continui telegrammi, io la definisco la diplomazia dei telegrammi, e contatti con gli ambasciatori presso la Santa Sede. Invece proprio dopo la distruzione dell'abbazia, Pio XII stranamente non protestò subito e forte. La Radio Vaticana non ne dette notizia subito. Sull'Osservatore Romano, solo 3 giorni dopo, il 18 febbraio, uscì un articolo di fondo titolato La tragica ora di Monte Cassino, in cui le parole di protesta più forti furono deplorazione e cocente rammarico. Poi il Papa citò pubblicamente la tragedia di Monte Cassino solo una settimana dopo, in una pastorale, ma fu soltanto un inciso, una semplice frase, tra parentesi, e quell'atteggiamento cauto del Vaticano suscitò la rabbiosa sorpresa dei nazifascisti e il compiaciuto stupore degli alleati. Nell'ultima parte del libro io ho cercato anche di indagare sui motivi politici dell'atteggiamento del Vaticano con un'intervista a padre Peter Gumpel, che è il relatore nella causa di beatificazione di Pio XII. E in sostanza il suo fu un calcolo politico, certo sofferto, per mantenersi neutrale e salvare Roma. E cioè, in sostanza, il Papa temeva che qualunque cosa avesse detto avrebbe potuto provocare la reazione dei tedeschi o degli alleati, sarebbe sembrata di parte, e questo avrebbe reso ancora più difficile la salvezza di Roma. E in questo senso dico, oltre che la tragedia di Monte Cassino almeno ebbe un ruolo purtroppo tragico, contribuì in qualche modo anche a salvare Roma. Bene, grazie, buona serata. Buonasera, grazie a voi.